volte certi pensieri dove ti portano io non lo so. Forse le esperienze di ieri non bastano più. Senti che devi andare in altri posti lontano da qui. Il tempo vorresti fermare tornando indietro, cercando il coraggio di ieri negli anni passati che non tornano più. Questi non sembrano veri e ti pesano tanto. Vorresti fermare il ricordo vivendone un altro un po' meno amaro, ma resti lì sempre sordo ad ogni richiamo. Cercato una volta il coraggio bevendo del vino e poi vedere un mondo diverso ma vuoto in fondo al bicchiere. Rimasto attaccato alla gonna pensandomi potesse aiutare, deluso e ferito la donna mi ha fatto cambiare. Forza e coraggio, fratello, anch'io ho dovuto portare questo pesante fardello per poi andare. Per strade diverse ho avuto ciò che ho sempre sognato, così mi sono riavuto e sono tornato. Quel mondo diverso ed amato, cercando me l'ho trovato, allora non ho più bevuto e sono rinato.